Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Soffro di deficit di accudimento, ma non ho capito cos'è. Chi ha visto Abemus Papa macchiare la scena, chi ancora non l'ha visto avrà sentito questa battuta che secondo alcuni è destinata ad entrare nella storia della filmografia di Moretti. E indubbiamente la figura di Margherita Bui nelle vesti di una psicoanalista, moglie e collega di Moretti nel film, con l'ossessione di rinviare tutti i sintomi nevrotici, compreso il profondo senso di inadeguatezza del pontefice appena eletto alla sindrome, incuriosisce e fa riflettere. Ma esiste davvero il deficit di accudimento? Esiste qualcosa di simile? Lo chiedo subito dandole il benvenuto alla dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che è in linea con noi. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, questo deficit di accudimento di cui si parla nel film di Nanni Moretti esiste o è una sorta di invenzione? Esiste qualcosa di simile nel caso? Ma vediamo un po', cosa avrebbe mai dovuto dire Pollicino a questo proposito rispetto al deficit di accudimento del babbo e della mamma? O Cenerentola, pensiamoci un po' insieme. O Pippi Calzelunghe, alcuni dei nomi degli eroi dei ragazzi di oggi, no? Di sempre, diciamo così, così grandiosa Pippi, così, però in fondo c'ha un babbo che non c'è e una mamma che non c'è, per cui morta addirittura, come spesso nelle fiabe succede. Allora diciamo pure che la sindrome da deficit di accudimento è sicuramente legata a uno stereotipo che gioca sulla mancanza, su qualcosa che non c'è stato, non è stata a sufficienza, e che da sempre, diciamo così, attraverso i personaggi, attraverso dei film o di altro, dà la possibilità di esprimere sentimenti come l'abbandono, la solitudine, l'ingiustizia, a cui tutti noi, insomma, il famoso il babbo non c'è e la mamma compra solo profumi per e sé. Balocchi. Mai balocchi a dar. Però io credo che oggi si assista un po', se vogliamo andare a vedere in maniera un pochino più fonda di che cosa significhi proprio questa deficit d'accudimento, in fondo si può rifare al bambino deprivato di cui parlava anche Winnicott, deprivato di cure ambientali, ma quindi sempre rimanendo sul punto, sul piano della mancanza. Però attenzione, perché i francesi giustamente spesso parlano anche di un eccesso di mamma, che forse, ecco, oggigiorno siamo talmente immersi in una cultura tolemaica che vede il bambino al centro dell'universo, per cui davvero si hanno delle generazioni di figli super protetti, bambini che poi diventano a rischio, no? Perché tutto quello che fanno e come si muovono è vissuto come qualcosa gli potrebbe succedere. Che allora, ugualmente in questa maniera qui, noi non facilitiamo i processi della crescita del bambino, non li facilitiamo per un eccesso, e quindi diventa comunque, se lo vogliamo dire in senso morettiano, un deficit d'accudimento. Quindi c'è un troppo e c'è un troppo poco. Allora oggi proviamo un po' a ricordare il bambino che siamo stati, o se preferite i genitori che abbiamo avuto, ci hanno accuditi e come. E questo esercizio credo possa anche suggerircene un altro: che tipo di genitori siamo, in altre parole che figli stiamo crescendo. Non so come la pensiate voi, ma io credo che i genitori aiutino, in alcuni casi segnino e in alcuni casi confondano. La civiltà di un popolo si misura da come questo popolo sa educare i propri bambini. Oggi noi abbiamo scoperto che durante la prima settimana di vita un bambino può incamerare miliardi di informazioni. Ma noi queste informazioni gliele diamo? Di fronte al bimbo in fascia, in genere, l'adulto tende a trasformarsi in un deficiente totale e a pronunciare frasi come un pigolino, viene da chiedersi come possa un bimbo in fasce nutrire fiducia in gente che parla così. È evidente che il bimbo imparerà tardi a parlare, è altresì evidente che avrà continue crisi di identità. Tra i bimbi le cose bisogna dirle come stanno. Vedete, io posso farvi un esempio privato. Io a mio figlio, che ha solo 3 mesi, dico: Vercingetorige, le tue dita dei piedi sono disposte in maniera davvero regolare. se volete intervenire oggi 800 24 00 24, vedo già Filippo Aureggi in regia alla parte tecnica che sorride, magari avrebbe anche lui qualche cosa da dirci, e chissà quanti di noi si sono riconosciuti. Dottoressa Trinci, lei come li vede questi genitori alle prese con il pupo? Ma guardi, queste battute che voi avete segnalato mi fanno venire in mente Munari, grande artista che tanto ha lavorato con i bambini e per i bambini. Lui aborriva il mugolio, anche lui faceva il verso, bibi piccolino, e diceva che veramente è una concezione di una bambinità nutellosa, e che questo tra l'altro è un po' un indicatore, come vedo i genitori, che sono più preoccupati dei figli, di come crescono, autenticamente preoccupati, però forse questa preoccupazione poi sovrasta anche l'attenzione. Ci stiamo riempiendo di cose, di oggetti, e fra l'altro c'è davvero una grande pressione mediatica, un impingement direbbero gli inglesi, su quelli che sono i primi anni di vita di un bambino, per cui i genitori sono terrorizzati da sbagliare dal loro punto di vista, poverini, sono terrorizzati, se faccio un errore ora gli verrà un trauma. Questo induce più la colpa che non la responsabilità. Noi dobbiamo fare molta attenzione, e in questo anche a questa sindrome del deficit di accudimento, a quella che è la psicologia a basso costo, come dicono gli inglesi, la CIPAR psychoanalysis. Guardi, a me è capitato di essere correlatore di una tesi di laurea a scienza dell'educazione a Firenze e di ascoltare una tesi di una ragazza prima che sosteneva che la rabbia di Hitler nei confronti dei nazisti derivava dal fatto che sua madre, lapsus enorme nei confronti degli ebrei, era derivato dal fatto che un medico ariano non aveva saputo curare la sua mamma. Cioè, questa è una semplificazione, è una ricerca appunto di non ha avuto abbastanza nella vita, quindi è disgraziato. Ma ricordiamoci bene, c'è la famiglia, ci sono i genitori, c'è l'ambiente, ci sono tante componenti. Noi non dobbiamo temere la fatica di educare. Un altro piccolo esempio da vita quotidiana: nelle scuole materne e nei nidi sono quasi scomparsi gli spaghetti, cioè la pasta corta, perché i bambini fanno meno fatica a rotolarla, la pasta, no? Sulla forchetta. Quindi spesso veramente c'è un po' un tentativo di delegare i figli, di non appropriarsi di quelle che sono le qualità e le facoltà genitoriali. Forse si vuole fare anche con alcuni cercano di fare con i figli l'esatto contrario di quello che i genitori hanno fatto con loro, altri invece che sono rimasti soddisfatti cercano di riproporre il modello genitoriale. Sì, questo ovviamente noi abbiamo sempre a che fare, come dice giustamente lei, con i modelli nostri primari, no? Quindi se uno ha avuto una mamma o un babbo di un certo tipo tende poi a riproporlo oppure a tenerne le distanze. Ma io penso che questo sia anche normale e naturale. L'importante penso che sia avere abbastanza chiaro nella testa e nell'anima quello che siamo noi e quello che è il figlio, che è altro da noi. Questo è un punto forse sul quale oggi bisogna lavorare molto, perché l'alterità, la conoscenza di un bambino è già un grande passo verso quella che poi sarà la salute stessa mentale del bambino e che lo garantisce da un deficit di accudimento. Oggi vogliamo proprio, dottoressa Trinci, misurarci come genitori e ricordare anche il bambino che siamo stati. Che cosa hanno prodotto le carezze, le sgridate, le attenzioni e le disattenzioni dei nostri genitori sulla nostra crescita? Non per colpevolizzarli. 800 24 00 24, riflettevo che ci sono tante persone che spiegano molte delle loro insicurezze, inadeguatezze con un'infanzia non serena, un rapporto con la madre o con il padre distaccato, freddo, un po' difficile. A volte sembra una giustificazione, una sorta di scaricabarile. D'altronde, come ho sentito di recente Geppi Cucciari, da Adamo in poi succede così. Secondo Margherita Bui, ad esempio, chi ha sofferto di deficit di accudimento è segnato per sempre. C'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupo a invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so, quassù mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete, come dire l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no nessuno dei due, Annie e io abbiamo rotto. E io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa, ecco. Un anno fa eravamo innamorati, sapete. Io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn. Mi chiedo che mamma e che papà abbia avuto Woody Allen. Buongiorno al dottor Francesco Aquilar, che è tornato a trovarci, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar. Buongiorno. Buongiorno, che papà e che mamma avrà avuto Woody Allen? Credo piuttosto severi, e che non gli hanno mai consentito di entrare in contatto con quello che lui provava, per cui qualsiasi emozione diventava immediatamente intellettualizzata. Ciò nonostante, appunto, tanti altri fattori hanno fatto sì che lui, con la sua genialità, riuscisse a raccontare le cose in modo che anche altri potessero identificarsi con quella modalità. Credo che comunque in lui sia derivata una grande sofferenza. Comunque noi ci abbiamo in qualche modo guadagnato, anche se lui ne ha fatto le spese. Francesco, dalla provincia di Cremona, buongiorno a lei, 800 24 00 24. Buongiorno, ho chiamato per confermare che quello che state dicendo è assolutamente vero, e l'ho provato un po' sulla mia pelle. Che è successo? Anche lei, come Woody Allen, ha avuto dei genitori un po'... parecchio iperprotettivi, e poi nascono delle fobie, delle insicurezze che col crescere diventano dei limiti enormi. Per cui, arrivata una certa età, ho dovuto per forza ricorrere ad una psicoterapia. E lei dà questa, cioè spiega questa sua difficoltà proprio dal rapporto che ha avuto con i suoi genitori? Direi proprio di sì, specialmente con la mamma. Dottor Aquilar, chissà quante volte nelle sedute verrà tirato in ballo il rapporto con i genitori. Quali sono i problemi che vengono di solito attribuiti a questa relazione? Ma da un lato una sensazione di insicurezza, che poi si declina in mille condizioni diverse, perché il punto è che per fortuna oggi abbiamo a disposizione molte ricerche che ci consentono di capirlo, non sulla speculazione ma sulla esperienza portata avanti per 40-50 anni di osservazione di certe cose. Diciamo che quello che a noi servirebbe dalla culla alla tomba sono quattro cose. La certezza di essere i benvenuti, il nutrimento sul piano fisico ed emotivo, il conforto se siamo tristi e la rassicurazione se siamo spaventati, come Bowlby ha riassunto molto brillantemente. Quando questo non c'è, ne deriva un'insicurezza che poi porta a sintomi, difficoltà, fobie, incertezze, e che, come diceva il nostro ascoltatore, è recuperabile nella stragrandissima maggioranza dei casi con una psicoterapia ben fatta. Carlo, che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno a lei, Carlo. Buongiorno. Sono reduce da un'esperienza con mia mamma, che ha avuto un'educazione dell'Ottocento, e successivamente lei ha avuto con me un tipo di educazione dei primi della guerra, dei primi dopoguerra, e quindi noi abbiamo avuto tutta questa difficoltà. Però oggi come oggi ci sono tantissime pubblicazioni, studi, e gli psicologi, tali per cui chiunque potrebbe documentarsi, mentre assistiamo al fatto che molti leggono un librettino per un telefonino da pochi soldi e non leggono niente su come educare i figli. Ma Carlo, se lei dovesse dare un consiglio proprio che deriva dalla sua esperienza, vita vissuta, ad un genitore, che cosa, o ad una persona, anche gliene chiedo due, che sente che qualche parte del suo carattere, le difficoltà che ha nell'affrontare la vita derivano proprio da questa relazione che è un po' zoppicante, che cosa direbbe? Se uno ha la relazione zoppicante oggi come oggi, avendo avuto i genitori che ha avuto, bisogna solo perdonare i genitori e andare da un bravo psicoterapeuta o counselor e cercare di attirare, di fare il meglio e rendersi conto della vita. C'è Berne, che consiglio a tutti di leggere, che è la teoria dei copioni che gli psicologi e gli psicoterapeuti possono illustrare. È interessantissimo. Invece per i nuovi genitori dico che devono dedicare del tempo a documentarsi per non fare degli errori talmente pacchiani che si vedono fare oggi come oggi con tutti i libri che ci sono nelle librerie di ogni tendenza, e che comunque avendoli letti ti danno un'idea. Grazie a Carlo e andiamo a Valentina che ci chiama da Roma. Buongiorno a lei, Valentina. Buongiorno, sì, io volevo confermare quanto state dicendo. Io ho avuto un'educazione difficile da parte dei miei genitori che mi hanno rimproverato sempre, spesso, e non mi hanno mai supportato. Questo ha generato grandissime insicurezze, come altri hanno detto, e adesso mi trovo con un figlio di 2 anni e sto cercando di fare diversamente, non so se è possibile, cerco di supportarlo tutte le volte che ne ha bisogno, però è difficile insegnare una cosa che nessuno, che non abbiamo vissuto. Questo, esatto. Valentina, io sono d'accordo con lei, ma vorrei coinvolgere i nostri due esperti, la dottoressa Trinci e il dottor Aquilar. Dottoressa Trinci, che idea si è fatta dei contributi dei nostri ascoltatori e come possiamo tradurre queste esperienze in indicazioni? Lei sa che a Essere Benessere si cerca un po' di far andare la testa e di cercare, no, delle, non dico delle soluzioni, ma delle idee per stare un po' meglio. Dunque, mi ha un po' colpito quello che diceva Carlo rispetto a un consiglio da dare ai genitori: andate a leggere, ci sono tanti libri su come educare. Mm. Ecco, io credo che, questo è un primo punto, io credo che è vero che ci sono tanti libri, intanto bisogna vedere la qualità dei libri, sì, perché molto spesso c'è una divulgazione bassa e un tentativo più di indottrinare il genitore che non di sollecitarlo in quelle che sono le sue. Noi ne abbiamo parlato tante volte con le mamme blogger di questo, sì, argomento, con Essere e Benessere appunto. E quindi io su questo direi che secondo me i genitori hanno invece davvero più bisogno di stare insieme fra di loro e, sì, di parlare fra di loro. Quindi per esempio quando si portano i bambini al nido, quando si portano i bambini alla materna e si fanno le recite insieme, si costruiscono i costumi per il carnevale, secondo me quelli sono dei momenti bellissimi in cui i genitori possono condividere la genitorialità e quindi anche tanti dubbi, per esempio teniamolo nel lettone o meno. Allora, non è solo l'esperto, fra virgolette, che consiglia e dice la sua opinione, ma sono tante opinioni a confronto. Il cosiddetto gruppo dei pari, ecco, funziona anche per i genitori. Secondo me è molto importante, perché non è che si può dare un consiglio tout court. Io su questo credo si debba essere onesti, cioè le persone hanno la loro storia, quindi prima di arrivare a poter definire o capire perché un bambino viene tenuto nel lettone o perché gli si lascia il pannolone più del previsto, eccetera eccetera, bisogna conoscersi, bisogna confrontarsi, capire anche quali sono i modelli educativi, perché come diceva giustamente Valentina molto saggiamente, è difficile, pur con la buona volontà, poter passare qualcosa a qualcun altro che non si è avuto. Quindi, cioè, se non ci sono dei modelli a cui fare riferimento, insomma, si procede un po' a tentoni. Ma insomma, fra tutti noi cerchiamo proprio di mettere a confronto qua con il nostro numero verde, con i nostri esperti, il nostro profilo Facebook, di fare una sorta di comunità. Dottoressa Trinci, io so che lei ci deve salutare, deve scappare, invece blocco il dottor Aquilar ancora per qualche minuto. Dottor Aquilar? Eccomi. Le posso rubare ancora qualche minuto? Certo. Allora, intanto ricordo che anche il dottor Aquilar fa parte della nostra pool di esperti che ogni giorno si occupano del nostro benessere, il nostro Daily Lab, il laboratorio dove voi potete entrare andando sul sito di Radio 24, www.radio24.it, cliccate sul Daily Lab e seguite alla lettera i consigli dei nostri esperti. Essere e benessere. Deficit di accudimento. Il film di Nanni Moretti ci ha messo la pulce nell'orecchio e molti di voi mi scrivono: sì, in effetti molte delle mie difficoltà derivano da un rapporto difficile con i miei genitori. E sto leggendo anche via sms al 349-238-6666 delle mini storie molto significative. Ma dottor Aquilar, che è in linea con noi, qualcosa si può fare, no? Crescere significa anche saper superare le difficoltà, accantonare i mugugni e darsi un po' da fare. Qualcosa, qualche strada c'è, no? Allora vorrei con lei fare questo esercizio un po' propositivo, eh? Certo, perché immaginiamo che quella sicurezza di base di cui parlavamo non è stata instaurata per tanti motivi. Va bene. Che cosa possiamo fare noi? Dal momento in cui siamo adulti possiamo provare a sviluppare le 5 competenze che servono per muoverci nelle relazioni. Okay. Che sono una competenza emotiva, quindi dobbiamo avere familiarità e riconoscere le nostre emozioni, una competenza cognitiva, cioè dobbiamo evitare gli errori di pensiero ed essere aiutati a modificarli e capire la mente dell'altro, una competenza comunicativa, dobbiamo sapere come si fa a comunicare e anche ad ascoltare, visto che moltissime persone parlano ma non ascoltano mai, una competenza motivazionale, cioè sulle motivazioni che noi abbiamo, che i nostri figli hanno e come fare ad armonizzare queste motivazioni, ed una competenza negoziale, perché dobbiamo in qualche modo venirci incontro gli uni con gli altri per rispettare le esigenze legittime di ciascuno. Questo va fatto con un minimo di ironia, perché l'altra tragedia è la mancanza di ironia sulla propria storia, sulle proprie difficoltà. L'ironia ci aiuta a prendere le distanze, e poi una buona lettura ogni tanto, qualche seminario, uno psicologo di famiglia che ci può dare un consiglio esattamente come il medico di famiglia, perché non sempre bisogna intervenire con una psicoterapia, ma spesso può bastare un seminario, un laboratorio, un'informazione o il Daily Lab di Radio 24 in certi casi più semplici. Senta, dottor Aquila, la ringrazio per la fiducia nel Daily Lab, che tra l'altro è un progetto che mi piace molto, ma io volevo chiederle, non possiamo proprio nel nostro Daily Lab pensare per i nostri ascoltatori a dei piccoli esercizi, delle idee, degli spunti per sviluppare passo passo queste competenze? Sicuramente sì, qualche passo l'abbiamo già fatto in alcuni certo. dei contributi che ho dato, ho provato a suggerirli in modo da fare una divulgazione intelligente, o almeno tentare di farla, che non spaventi le persone e che le guidi passo passo in una piccola consapevolezza quotidiana che aumenti di giorno in giorno. Dottor Aquila, allora io la metto subito al lavoro, si mette al lavoro per noi, l'aspettiamo. Con molto piacere. Grazie al dottor Aquilar per essere stato con noi. Vado a salutare Maria Teresa che ci chiama da Genova. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie mille per questa splendida trasmissione. Grazie allora, a lei. Allora, io premesso che il rapporto che ho io ora ho 46 anni e il rapporto che io ho avuto con i miei genitori non è stato idilliaco. Nel senso che abbiamo sempre avuto grossissimi conflitti, soprattutto con mio papà. Questa cosa però devo dire che mi è servita molto, nel senso che io ho molto ben presente quali sono e ancora vive quelle che sono state le sofferenze che io ho vissuto, le sofferenze emotive naturalmente, sì. che io ho vissuto durante la mia adolescenza. E quindi adesso con i miei figli, che sono tre, e uno ha 19 anni, uno ne ha 16, l'altro ne ha 11, cerco comunque sempre di ricordarmi queste cose qua e di non commettere gli errori che ha fatto mio papà, che ha fatto mia mamma quando io avevo la loro età. Insomma, ha ben chiaro quelle che sono state le mancanze, i vuoti, e cerca di riempirle un po' con i suoi figli nella relazione con i figli, tenendo conto, io sono genitore, sono mamma e so che bisogna rassegnarci che gli errori, anche non volendolo, anche con tutti i nostri le nostre attenzioni, li commettiamo sempre. Grazie a Maria Teresa che ci ha chiamato da Genova all'800 24 00 24. Io vado a salutare un esperto di terapia familiare, abbiamo in linea con noi Nessia Lagnado. Buongiorno. Buongiorno. Intanto colgo l'occasione perché un ascoltatore mi scrive un SMS dicendo: ma se esistono i libri che insegnano il lavoro dei genitori, perché non li date i titoli? Ne abbiamo dati tanti, poi non c'è un solo libro o alcuni libri, ce ne sono diversi, anche se poi un po' Nessia l'esperienza la facciamo sul campo. Ma ad esempio io vi consiglio un libro proprio del nostro ospite di oggi, Bebè Felici, per arricchire di emozioni positive il primo anno di vita dei nostri figli. E tra i molti temi che ha affrontato, anche non solo in questo libro ma nei suoi libri in genere, ne ha scritti davvero tanto, due in particolare sono quelli che vorrei approfondire. Tra l'altro sono quelli che spesso mettono in seria difficoltà tanti genitori riguardo proprio all'accudimento. Sto parlando ad esempio di come gestire e consolare il pianto dei nostri bambini e poi di come aiutare l'addormentamento, magari un po' complesso e capriccioso. Sono proprio quelle, quando il bambino piange e noi non ci occupiamo, non riusciamo a calmarlo, abbiamo la sensazione di non avere le capacità di accudirlo per bene. Ma riguardo al pianto, lei ha una posizione ben precisa, vero? Ce la vuole illustrare? Sì. Nel bambino piccolo, che ancora non parla, ma anche un po' dopo, il pianto è l'unico linguaggio che ha il bambino per comunicare con noi. noi diamo al pianto una connotazione negativa, perché se piangiamo, di solito piangiamo perché qualcosa ci fa male. Spesso piangiamo anche per commozione. Queste sono le due caratteristiche del pianto degli adulti. Sì. Nei bambini il pianto vuol dire molte più cose. Vuol dire sono stanco, vuol dire voglio una coccola, vuol dire mi sto annoiando, vuol dire mi fa male qualcosa. Vuol dire ti sto semplicemente chiamando, voglio sapere se sei qui. E spesso e volentieri noi il pianto del bambino ci spaventa. Sì. E questo nostro spavento in qualche modo non aiuta. Proprio perché noi dobbiamo imparare ad ascoltarlo e a fare del pianto, a concepire il pianto del bambino proprio come una forma di comunicazione tra noi e lui. Sì, per cui di solito anche il bambino non sa perché piange a volte. Succede molto spesso che si va a prendere il bambino all'asilo, lui stava benissimo tutto il giorno, ci vede e piange. Mm. E allora noi sentiamo che magari piange perché è stato male o perché ci sentiamo in colpa, invece piange semplicemente perché è felice di vederci, si piange anche per felicità e questo tante volte lo dimentichiamo. Quindi il pianto del bambino ha tanti significati e è stato anche così analizzato da numerose ricerche, lei ne parla nel suo libro, andiamo a sentire. È un riflesso automatico, il bambino non sceglie di piangere, ma è costretto a farlo. Nel momento in cui il lattante sente un bisogno impellente, è indotto a inspirare aria nei polmoni e a espellerla attraverso le corde vocali che, vibrando, producono un suono che noi chiamiamo pianto, ma che sarebbe più esatto definire urlo. Nei primi mesi di vita, quindi, il bambino non decide di piangere, ma lo fa in modo automatico. Quando i suoi polmoni sono pieni d'aria, deve espellerla e piange. È personale. Il pianto di ciascun bambino è unico. E persino i gemelli monozigoti hanno tonalità differenti. Ogni bambino ha impronte sonore diverse, così come sono diverse le impronte dei polpastrelli delle dita. È efficace. Nel sentire il bambino che piange, il sangue affluisce al seno della mamma, che prova l'impulso di prenderlo in braccio e di nutrirlo. L'ossitocina, l'ormone che stimola la secrezione del latte, induce inoltre un senso di rilassamento e di benessere, che calma la tensione provocata dal pianto del piccolo. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi chiederemo a Nessi e a Lagnado dei consigli, delle indicazioni. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo se si prendono in braccio i bambini appena piangono, prendono i vizi, i capricci e poi non se ne esce più. Forse Nessi e Lagnado ha qualche cosa riguardo da commentare. Ci sentiamo subito dopo, anche con Monica dalla provincia di Monza e Morris da Ravenna. Essere e benessere. Allora, se il bambino piange, se voglio occuparmi di lui senza, no, senza soffocarlo di troppe attenzioni, voglio proprio instaurare una forma di comunicazione, può regalarci qualche consiglio pratico? Sì, possiamo parlare per esempio del pianto del bambino fino a un anno, 2 anni di vita. Sì. Che sono quelli più incomprensibili, no? Che sono quelli più incomprensibili. Perché non parlando poco, sì. Noi dobbiamo proprio guardare il suo corpo, l'atteggiamento del volto. Per esempio, se piange di notte, sì, e si sveglia di notte piangendo, quello che moltissimi esperti consigliano è di aspettare un minuto, esattamente sì. 60 secondi, che è il tempo per cui, in cui il bambino si rende conto del perché piange. E anche noi creiamo una specie di distanza. Sì. Il minuto è interminabile per i genitori. Anche perché urlano, come delle scimmie urlatrici. Poi arrivare lì e essergli vicino, senza cercare di soffocare il pianto. Sì. Ma toccarlo, parlargli, magari anche prenderlo in braccio. Quello che ci sentiamo di fare per essergli vicino. Tante volte basta questo. Però aspettare questi famosi 60 secondi. Bambino sì. Un pochino più grande. Perché non diventi un riflesso automatico che appena piange lui ha una risposta automatica. Certo, perché sono furbi. Dobbiamo renderci conto di quello che succede. Abbiamo parlato del pianto di notte. Quale altro pianto può metterci in difficoltà e per il quale lei può suggerirci un'indicazione? Ma qualsiasi pianto, il pianto del bambino che si fa male, il pianto del bambino a cui hanno preso un giocattolo, il pianto del bambino che non vuole qualcosa. Il primo istinto nostro, proprio perché diamo al pianto una connotazione negativa, è quella di farlo smettere. Non piangere, non fare così, sì. Cercare di convincere, di fare. Sei grande, non piangere, è un classico, sei grande, no? Non piangere. In realtà basterebbe abbracciare il bambino e dire che lo capiamo. E lasciare che lui si esprima in questo modo. Il non piangere dà al bambino l'idea che quello che lui sente in quel momento, che è impellente, che non riesce a controllare, è più forte di lui. Nel momento in cui diciamo capiamo, ti sei fatto male, sei deluso perché ti hanno preso il giocattolo, sei arrabbiato, sei stanco. Sì, c'è proprio questo ascolto. Vieni, ti sono vicino, ti ascolto. Possiamo anche non parlare, basta un abbraccio. Sì. È quello che in realtà vogliamo noi quando siamo grandi. Brava, com'è vero. Ecco. Se siamo tristi e piangiamo, uno ci dice non piangere, non fai, dai, andrà bene. Ci dà molto fastidio. Invece ci prende la mano e ci dice ti capisco, forse è quello di cui abbiamo bisogno. Ricordo il titolo del libro che vi abbiamo selezionato, Bebè felici per arricchire di emozioni positive il primo anno di vita dei nostri figli. Saluto e ringrazio Nessia Lagnado per essere stata con noi, buonissima giornata. Grazie. E risaluto Alberto Pellai che in questa puntata è tornato a trovarci. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Abbiamo 5 minuti che ci separano dalla chiusura della nostra trasmissione. Tempo ancora di sentire i nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Vorrei andare subito a Moris che ci chiama da Ravenna. Buongiorno Moris, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Perché di solito ascolto Radio 24 per altri motivi, ma stavolta sono voluto venire. Bravo Moris. Semplicemente io ho avuto sono figlio unico e mi è venuto un po' a mancare la figura paterna, non perché mio padre si è deceduto, ma perché purtroppo si ammalò di una patologia psichiatrica. Sì. Volevo semplicemente dire che secondo me, nel mio caso, il figlio a cui è mancata una certa figura, sì, cerca lui medesimo di diventare quella che ha idealizzato che gli è mancata. Certo. Quindi cerchi di, ad esempio, mi iscrissi a scienze dell'educazione. Insomma, cerchi un pochettino di supplire creandoti una figura... Di rivivere quello che sì. Quella figura non ha potuto vivere con te. Grazie Moris, questo sicuramente è un tema ad Alberto Pellai molto caro. Alberto? Sì, la vita per molti di noi diventa una sorta di autoterapia rispetto ai pezzi che ci hanno fatto stare male o che ci sono mancati. Secondo me l'atteggiamento poi di nuovo è... quanto ciò che facciamo per compensare ciò che non abbiamo avuto è un atteggiamento, è una scelta che ci spinge verso una libertà maggiore, quanto invece diventa una trappola che ci ingabbia alla costante ricerca di ciò che non possiamo avere. Penso a certe relazioni affettive tra donne che cercano partner molto più anziani di loro e che in realtà non vanno a cercare un amore che le salva, ma un amore che recupera l'amore del padre che con loro non è stato disponibile. Quella non è un grado di maggior libertà attraverso l'amore, ma probabilmente diventa una trappola. Ma le nonne, mi scrivo in un SMS, nessuno dice niente dei nonni. Dedicheremo una puntata a questa figura speciale, importantissima. Io ho avuto una nonna, la mia nonna Candida, che per me è stata veramente una donna speciale, ma io voglio invece non parlare con una nonna ma con una mamma. Oggi proprio abbiamo detto, la dottoressa Trinci diceva che è importante, no? Parlare con le mamme che stanno vivendo le stesse situazioni. Noi abbiamo una mamma molto, molto speciale, saluto Alexia, la cantante, ma anche la mamma Bis. Alexia, ciao, tu sei in dolce attesa. Ciao, buongiorno, esatto. E quando nascerà? Verso i primi di luglio, quindi manca poco più di un mese. Senti, ma tu hai già un altro figlio che sta attendendo il fratellino e quindi il consiglio finale della nostra trasmissione lo chiedo proprio a te. Alcuni messaggi sono arrivati dicendo io sento di non occuparmi in modo adeguato del mio bambino più grande perché ho un bambino piccolo e vedo che lui ne sta soffrendo. Tu come pensi di organizzarti? Ma al momento sento di non occuparmi molto del bambino più piccolo, cioè di quella che sta arrivando, perché ovviamente la presenza della bimba più grande è talmente forte che ogni tanto veramente mi impedisce di concentrarmi pienamente sul nuovo arrivo. Però devo dire che la cosa più, credo che più importante in questo momento per lei sia proprio quello di non farla sentire che sta diventando una cosa secondaria, ma in realtà deve cercare di essere partecipe a questa nuova nascita. E mi sto impegnando veramente tanto, e devo dire che è una cosa faticosissima, perché tra il caldo, il peso ovviamente della gravidanza, avere comunque una bambina di 4 anni che ti distrae, che ti prende la giornata, certo, è molto impegnativo. Alberto, tu hai un consiglio da dare alle mamme che, come Alexia, sono in attesa del bambino e hanno altri bambini a casa, a cui far incontrare questo nuovo fratellino senza farli sentire secondi? Ma intanto ci sono anche i papà, quindi fatevi aiutare dai vostri compagni. Poi simulate molte delle azioni che succederanno in casa dopo la nascita del bambino già da subito con il gioco di una bambola e di un bambolotto. E l'ultima cosa, non abbiate paura di non amare abbastanza il figlio che nasce oppure il figlio che c'è già in occasione di una nuova nascita. Ogni bambino riuscirà a chiedere alla sua mamma e al papà il giusto amore, tutto l'amore di cui ha bisogno. Le mamme e il papà imparano subito ad amare i nuovi arrivati, così come continueranno ad amare quelli che già ci sono. Alexia, tanti auguri. Grazie mille. Un abbraccio, grazie. E grazie per essere intervenuto. Saluto ad Alberto Pellai. Io vi saluto perché vi aspetto di nuovo qui domani dopo il GR delle 11. Ricordatevi il nostro Daily Lab e il nostro profilo Facebook. Buonissima giornata. Essere e benessere.